Sabato 17 dicembre al Covo Club di Bologna suoneranno i Confusional Quartet, band bolognese che porta confusione e disordine creativo sui palchi dalla fine degli anni 70. Lo scorso 12 ottobre è uscito il nuovo e omonimo album della band. È qui con noi per parlarne Marco Bertoni, a cui do il benvenuto su Radio Città Fucico. Ciao a tutti! I Confusional Quartet nascono alla fine degli anni 70. Fate musica da 43 anni. Cosa vuol dire suonare insieme da così tanto e come siete cresciuti in questo lungo periodo? Sì, in effetti è parecchio tempo che facciamo dei danni insieme. Volevo solamente, come dire, fare una piccola premessa che quando abbiamo cominciato eravamo adolescenti, come dicevi giustamente prima, alla fine degli anni 70, e abbiamo suonato fino, diciamo, dal 77 fino al 1981. Poi abbiamo avuto una lunga pausa dove, per motivi vari, ognuno ha fatto un pochino le sue esperienze. Poi ci siamo ritrovati e abbiamo ricominciato a fare insieme concerti e dischi intorno al 2010, e da allora appunto stiamo continuando. Devo dire che la cosa che più, a parte l'età ovviamente che è aumentata per tutti quanti, il cambiamento penso che sia più nella sensazione che ci dà l'esterno rispetto a quello che facciamo con la musica, nel senso che è storicamente assodato che il periodo nel quale comunque noi nasciamo è un periodo abbastanza di fermento e di fertilità artistica, perché la Bologna di quegli anni era un posto dove comunque già l'aria che si respirava sotto i portici era molto diversa, per cui noi come ragazzini eravamo molto stimolati e di conseguenza ci è venuto molto facile, diciamo così, entrare in questo clima di provocazione e di creatività. Adesso questa cosa che è nata in noi da allora, è sempre stato un germe seminale che ha invaso le nostre musiche, è rimasto, però forse ci è rimasta più la voglia di appunto continuare a provocare, continuare a fare sentire che è ancora possibile fare musica liberi completamente da vincoli, che siano ovviamente commerciali ma anche proprio culturali, cioè cercare insieme a pensare delle cose in assoluta libertà. Questo è la cosa che proviamo a continuare a fare e che ci viene bene, insomma, diciamo che ci piace proprio ancora suonare insieme per questo motivo. Esce lo scorso ottobre un disco arrivato in studio ma suonato di getto, quasi come un live. Come e quando è nata l'idea per il nuovo album? Era già 6 anni che non facevamo album, perché l'ultimo è Confusional Quartet Play Demetrio Stratos, che era stato un lavoro interamente dedicato alla voce e alle composizioni di Demetrio Stratos. E questo nuovo disco, che si chiama lui Confusional Quartet, è nato perché noi prima della pandemia siamo stati a fare qualche concerto in Francia, e a Parigi è stata una cosa per noi molto molto bella e molto divertente, molto sorprendente, perché abbiamo riscosso veramente un buon successo e ci ha veramente divertito vedere come tutti quanti, io non so come facessero, ma ballavano con le nostre musiche, si divertivano un casino. Allora, sull'onda di questa di questo entusiasmo, di questo piacere anche di divertirsi senza troppo, insomma, pensare, senza troppo fare caso a quelle che possono essere le mode del momento, ma usando questa, come si può dire, l'energia che una band riesce a creare su un palcoscenico, ci è venuto in mente di appunto di fare un album spinti da questa energia, dove appunto poter dimostrare che un collettivo ha una forza dirompente in questo senso, per cui abbiamo cominciato a scrivere tutti i pezzi, che però sono stati, diciamo, dal punto di vista di invenzione, scrittura, sono poi nati, diciamo, per procura, perché era già tutto bloccato causa Covid, per cui da lontano ci mandavamo i file, ci mandavamo le idee, che poi sono state completamente rifinite e risuonate tutti insieme per poi arrivare in studio e registrare l'album. Quali sono le emozioni che vi accompagnano per questo ritorno? Le emozioni sono tante, perché, diciamo così, la parola ritorno per noi è il fatto che praticamente 2 anni che si è fermi in causa pandemia, quindi per noi il ritorno è appunto pensare come sono stati belli, come sono andati bene questi ultimi concerti europei, e l'emozione è che comunque noi ogni disco che facciamo, quasi ogni pezzo che facciamo è diverso da quello precedente, per cui per noi questo nuovo disco rappresenta anche aver fatto delle cose che non avevamo mai fatto prima, anche da un punto di vista proprio di musicale e da un punto di vista di colori e climi e ritmi che facciamo, per cui l'emozione è finalmente portare queste cose nuove dal vivo e mescolare queste cose nuove in una scaletta che appunto abbiamo costruito apposta per questo concerto di festeggiamento dell'album. album per il Covo, dove in questa scaletta abbiamo anche pezzi, addirittura abbiamo fatto un medley prendendo la prima facciata del nostro primo album e anche i brani che più ci sembravano adatti a mescolarsi insieme a quelli nuovi tratti dai nostri ultimi lavori. Marco, io ti ringrazio e invito tutte e tutti al Covo Club di Bologna sabato 17 dicembre. Alla grande, grazie a voi, ci vediamo al Covo. Ciao!